www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. La gioventù va via presto sulla terra, figuratevi sugli alberi, donde tutto è destinato a cadere, foglie, frutti. Cosimo veniva vecchio. Tanti anni, con tutte le loro notti passate al gelo, al vento, all'acqua, sotto fragili ripari o senza nulla intorno, circondato dall'aria, senza mai una casa, un fuoco, un piatto caldo. Cosimo era ormai un vecchietto rattrappito, gambe arcuate e braccia lunghe come una scimmia, gibboso, insaccato in un mantello di pelliccia che finiva a cappuccio, come un frate peloso. La faccia era cotta dal sole, rugosa come una castagna, con chiari occhi rotondi tra le grinze. Alla Beresina l'armata di Napoleone volta in rotta, la squadra inglese in sbarco a Genova, noi passavamo i giorni attendendo le notizie dei rivolgimenti. Cosimo non si faceva vedere a Ombrosa. Stava appollaiato su di un pino del bosco, sul ciglio del cammino dell'artiglieria, laddove erano passati i cannoni per Marengo, e guardava verso oriente, sul battuto deserto, in cui ora soltanto si incontravano pastori con le capre o muli carichi di legna. Cosa aspettava? Napoleone l'aveva visto. La rivoluzione sapeva com'era finita. Non c'era più da attendersi che il peggio. Eppure stava lì, a occhi fissi, come se da un momento all'altro, alla svolta, dovesse comparire l'armata imperiale ancora ricoperta di ghiaccioli russi e Bonaparte in sella, il mento marraso chino sul petto, febbricitante, pallido. Si sarebbe fermato sotto il pino. Dietro di lui un confuso smorzarsi di passi, uno sbattere di zaini e fucili a terra, uno scalzarsi di soldati esausti al ciglio della strada, uno sbendar piedi piegati. E avrebbe detto: «Avevi ragione, cittadino Rondò. Ridammi le costituzioni da te vergate, ridammi il tuo consiglio che né il direttorio, né il consolato, né l'impero vollero ascoltare. Ricominciamo da capo, rialziamo gli alberi della libertà, salviamo la patria universale». Questi erano certo i sogni, le speranze di Cosimo. Invece un giorno, arrancando sul cammino dell'artiglieria, da oriente vennero avanti tre figuri. Uno, zoppo, si reggeva una stampella. L'altro aveva il capo in un turbante di bende. Il terzo era il più sano, perché aveva solo un legaccio nero sopra un occhio. Gli stracci estinti che portavano addosso, i brandelli d'alamari che gli pendevano dal petto, il colbacco senza più cocuzzolo, ma col pennacchio che uno di loro aveva, gli stivali stracciati lungo tutta la gamba, parevano aver appartenuto a uniformi della guardia napoleonica. Ma armi non ne avevano. Ossia, uno brandiva un fodero di sciabola vuoto, un altro teneva su una spalla una canna di fucile, come un bastone per reggere un fagotto. E venivano avanti cantando. «De mon pays, de mon pays, de mon pays», come tre ubriachi. «Ehi, forestieri!» gridò loro mio fratello. «Chi siete?» «Guarda che razza d'uccello! Che fai lassù, mangi pinoli?» E un altro. «Chi vuol darci dei pinoli? Con la fame arretrata che abbiamo vuol farci mangiare dei pinoli?» «E la sete che ci è venuta a mangiar neve! Siamo il terzo reggimento degli usseri, al completo, tutti quelli che rimangono. 3 su 300, non è poco. Per me sono scampato io e tanto basta». «Ah, non è ancora detto, la pelle a casa non l'hai ancora portata. Ti pigli un canchero! Siamo i vincitori d'Austerlitz. E i fottuti di Vilna. Allegria! Di uccello parlante, spiegaci dov'è una cantina da queste parti. Abbiamo votato le botti di mezza Europa, ma la sete non ci passa». «Perché siamo crivellati dalle pallottole e il vino cola. Tu sei crivellato in quel posto. Una cantina che ci faccia credito. Passeremo a pagare un'altra volta. Paga Napoleone. Paga lo zar. Ci sta venendo dietro. Presentate conto a lui». Cosimo disse: «Vino da queste parti niente, ma più in là c'è un ruscello e potete togliervi la sete». «Annegati tu nel ruscello, gufo! Non avessi perduto il fucile nella vistola, ti avrei già sparato e cotto allo spiedo come un tordo». «Aspettate, io in questo ruscello vado a metterci a bagno il piede, che mi brucia». «Per me, lavatici anche il di dietro». Intanto andarono al ruscello tutti e tre, a scalzarsi, mettere i piedi a bagno, lavarsi la faccia e i panni. Il sapone l'ebbero da Cosimo, che era uno di quelli che, venendo vecchi, diventano puliti, perché gli prende quel tanto di schifo di sé che in gioventù non s'avverte. Così girava sempre col sapone. Il fresco dell'acqua snebbiò un po' la sbronza dei tre reduci. E passando la sbronza passava l'allegria. Li riprendeva la tristezza del loro stato e sospiravano e gemevano. Ma in quella tristezza l'acqua limpida diventava una gioia e ne godevano cantando «De mon pays, de mon pays, de mon pays». Cosimo era al suo posto di vedetta sul ciglio della strada. Sentì un galoppo. Ecco che arrivava un drappello di cavalleggeri, sollevando polvere. Vestivano divise mai vedute e sotto i pesanti colbacchi mostravano certi visi biondi, barbuti, un po' schiacciati, dai socchiusi occhi verdi. Cosimo li salutò col cappello. «Qual buon vento, cavalieri!» Si fermarono. «Zdravstvi!» «Di, Batiushka, quanto ce n'è per arrivare?» «Zdravstvi, zie soldati!» disse Cosimo, che aveva imparato un po' di tutte le lingue, e anche del russo. «Kudava, per arrivare dove?» «Per arrivare dove arriva questa strada!» «Questa strada, arrivare, arriva in tanti posti. Voi dove andate?» «V Parigi!» «Beh, per Parigi ce n'è delle più comode!» «Niet, nie Parigi! V Franziu, za Napoleona!» «Cudavi idiote tadaroga!» «In tanti posti! Oliva Bassa, Sassocorto, Trappa...» «Cac! Olivia Bassa! Niet, niet!» «Beh, volendo si va anche a Marsiglia!» «V Marseille, da Marseille, Francia!» «E che ci andate a fare in Francia?» «Napoleone è venuto a fare guerra al nostro zar e adesso il nostro zar corre dietro a Napoleone!» «E fin da dove venite?» «Is Kharkova, is Kiev, is Rastova!» «Oh, così ne avete visti di bei posti! E vi piace più qui da noi o in Russia?» «Posti belli, posti brutti, a noi piace la Russia!» Un galoppo, un polverone e un cavallo si fermò lì, montato da un ufficiale che gridò ai cosacchi. «Fon, marsch! Kto vam pazvalila stanovizia?» «Da svidania Batiushka!» dissero quelli a Cosimo. «Nam parà!» e spronarono via. L'ufficiale era rimasto a piede il pino. Era alto, esile, d'aria nobile e triste. Teneva levato il capo nudo verso il cielo venato di nuvole. «Bonjour, messieurs», disse a Cosimo. «Vous connaissez notre langue?» «Da? Gaspadin, officier», rispose mio fratello. «Mais pas mieux que vous les Français, quand même». «Êtes-vous un habitant de ces pays? Étiez-vous ici pendant qu'il y avait Napoléon?» «Oui, monsieur l'officier». «Comment ça allait-il?» «Et vous savez, monsieur, les armées font toujours des dégâts. Quelles que soient les idées qu'elles apportent. Oui, nous aussi nous faisons beaucoup de dégâts. Mais nous n'apportons pas d'idées. Era malinconico e inquieto. Eppure era un vincitore. Cosimo lo prese in simpatia e voleva consolarlo. Vous avez vaincu? Oui, nous avons bien combattu. Très bien. Mais peut-être... S'udì uno scoppio d'urla, un tonfare, un cozzar d'armi. Kto tam? Fece l'ufficiale. Tornarono i cosacchi e trascinavano per terra dei corpi mezzi nudi e in mano reggevano qualcosa. Nella sinistra, la destra impugnava la larga sciabola ricurva, sguainata, e sì, grondante sangue. E questo qualcosa erano le teste barbute di quei tre ubriaconi d'ussari. «Franzusi! Napoleon! Tutti ammazzati!» Il giovane ufficiale con secchi ordini li fece portare via, voltò il capo, parlò ancora a Cosimo. «Vous voyez la guerre?» Il y a plusieurs années que je fais le mieux que je puis une chose affreuse, la guerre. Et tout cela pour des idéaux que je ne saurais presque expliquer moi-même. Anch'io, rispose Cosimo, vivo da molti anni per degli ideali che non saprei spiegare neppure a me stesso. Mais j'ai fait une chose tout à fait bonne. Je vis dans les arbres. L'ufficiale, da melanconico, s'era fatto nervoso. Allora, disse, je dois m'en aller. Salutò militarmente. Adieu, monsieur. Quel est votre nom? «Le Baron Cosme de Rondeau!» gli gridò dietro Cosimo, che già lui era partito. «Prochaitie! Gaspadin! E le vôtre! Je suis le Prince André!» E il galoppo del cavallo si portò via il cognome. Ora io non so che cosa ci porterà questo secolo XIX, cominciato male e che continua sempre peggio. Grava sull'Europa l'ombra della Restaurazione. Tutti i novatori, giacobini o bonapartisti che fossero, sconfitti. L'assolutismo e i gesuiti rianno il campo. Gli ideali della giovinezza, i lumi, le speranze del nostro secolo XVIII, tutto è cenere. Io confido i miei pensieri a questo quaderno. Ne saprei altrimenti esprimerli. Sono stato sempre un uomo posato, senza grandi slanci o smanie, padre di famiglia, nobile di casato, illuminato di idee, ossequente alle leggi. Gli eccessi della politica non m'hanno mai dato scrolloni troppo forti e spero che così continui. Ma dentro, che tristezza. Prima era diverso, c'era mio fratello, mi dicevo. C'è già lui che ci pensa e io badavo a vivere. Il segno delle cose cambiate per me non è stato né l'arrivo degli astrorussi, né l'annessione al Piemonte, né le nuove tasse o che so io, ma il non vedere più lui, aprendo la finestra lassù in bilico. Ora che lui non c'è, mi pare che dovrei pensare a tante cose, la filosofia, la politica, la storia. Seguo le gazzette, leggo i libri, mi ci rompo la testa, ma le cose che voleva dire lui non sono lì. È altro che lui intendeva, qualcosa che abbracciasse tutto e non poteva dirla con parole, ma solo vivendo come visse, solo essendo così spietatamente se stesso, come fu fino alla morte, poteva dare qualcosa a tutti gli uomini. Ricordo quando s'ammalò. Ce l'accorgemmo perché portò il suo giaciglio sul grande noce, là in mezzo alla piazza. Prima i luoghi dove dormiva li aveva sempre tenuti nascosti, col suo istinto selvatico. Ora sentiva il bisogno d'essere sempre in vista degli altri. A me si strinse il cuore. Avevo sempre pensato che non gli sarebbe piaciuto di morire solo. E quello forse era già un segno. Gli mandammo un medico, su, con una scala. Quando scese, fece una smorfia ed allargò le braccia. Salì io sulla scala. «Cosimo», principiai a dirgli, «hai 65 anni passati. Come puoi continuare a stare lì in cima?» Ormai quello che volevi dire l'hai detto, abbiamo capito. È stata una gran forza d'animo la tua, ce l'hai fatta, ora puoi scendere. Anche per chi ha passato tutta la vita in mare c'è un'età in cui si sbarca. Ma che? Fece di no con la mano, non parlava quasi più. S'alzava ogni tanto, avvolto in una coperta fin sul capo, e si sedeva sul ramo a godersi un po' di sole. Più in là non si spostava. C'era una vecchia del popolo, una santa donna, forse una sua antica amante, che andava a fargli le pulizie, a portargli i piatti caldi. Tenevamo la scala a pioli appoggiata contro il tronco, perché c'era sempre bisogno di andar su ad aiutarlo, e anche perché si sperava che si decidesse da un momento all'altro a venir giù. Lo speravano gli altri, io lo sapevo bene come lui era fatto. Intorno, sulla piazza, c'era sempre un circolo di gente che gli teneva compagnia, discorrendo tra loro e talvolta anche rivolgendogli una battuta, sebbene si sapesse che non aveva più voglia di parlare. S'aggravò. Issammo un letto sull'albero. Riuscimmo a sistemarlo in equilibrio. Lui si coricò volentieri. Ci prese un po' il rimorso di non averci pensato prima. A dire il vero, lui le comodità non le rifiutava mica. Purché fosse sugli alberi, aveva sempre cercato di vivere meglio che poteva. Allora ci affrettammo a dargli altri conforti. Delle stuoie per ripararlo dall'aria, un baldacchino, un braciere. Migliorò un poco e gli portammo una poltrona, l'assicurammo tra due rami. Prese a passarci le giornate, avvolto nelle sue coperte. Un mattino invece non lo vedemmo né in letto né in poltrona. Alzammo lo sguardo, intimoriti. Era salito in cima all'albero e se ne stava a cavalcioni d'un ramo altissimo, con indosso solo una camicia. «Che fai lassù?» Non rispose. Era mezzo rigido, sembrava stesse là in cima per miracolo. Preparammo un gran lenzuolo di quelli per raccogliere le olive e ci mettemmo in una ventina a tenerlo teso, perché ci si aspettava che cascasse. Intanto andò su un medico. Fu una salita difficile, bisognò legare due scale una sull'altra. Scese e disse: «Vada il prete». C'eravamo già accordati che provasse un certo Don Pericle, suo amico, prete costituzionale al tempo dei francesi, iscritto alla loggia quando ancora non era proibito al clero, e di recente riammesso ai suoi uffici dal vescovado dopo molte traversie. Salì coi paramenti al ciborio e dietro il chierico. Stette un po' lassù, pareva confabulassero, poi scese. «Li ha presi i sacramenti allora, Don Pericle?» «No, no, no, ma dice che va bene, che per lui va bene». Non si riuscì a cavargli di più. Gli uomini che tenevano il lenzuolo erano stanchi. Cosimo stava lassù e non si muoveva. Si levò il vento, era libeccio. La vetta dell'albero ondeggiava, noi stavamo pronti. In quella, in cielo, apparve una mongolfiera. Certi aeronauti inglesi facevano esperienze di volo in mongolfiera sulla costa. Era un bel pallone, ornato di frange, gale, fiocchi, con appesa una navicella di vimini. E dentro due ufficiali con le spalline d'oro e le aguzze feluche guardavano col cannocchiale il paesaggio sottostante. Puntarono i cannocchiali sulla piazza, osservando l'uomo sull'albero, il lenzuolo teso, la folla, aspetti strani del mondo. Anche Cosimo aveva alzato il capo e guardava attento il pallone. Quando ecco la mongolfiera, Fu presa da una girata di libeccio, cominciò a correre nel vento vorticando come una trottola e andava verso il mare. Gli aeronauti, senza perdersi d'animo, s'adoperavano a ridurre, credo, la pressione del pallone e nello stesso tempo srotolarono giù l'ancora per cercare di afferrarsi a qualche appiglio. L'ancora volava argentea nel cielo, appesa a una lunga fune, e seguendo obliqua la corsa del pallone, ora passava sopra la piazza ed era pressappoco all'altezza della cima del noce, tanto che temevamo colpisse Cosimo. Ma non potevamo supporre quello che dopo un attimo avrebbero visto i nostri occhi. L'agonizzante Cosimo, nel momento in cui la fune dell'ancora gli passò vicino, spiccò un balzo di quelli che gli erano consueti nella sua gioventù. S'aggrappò alla corda, coi piedi sull'ancora e il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volar via, trascinato nel vento, frenando appena la corsa del pallone, e sparire verso il mare. La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull'altra riva. Appesa sulla corda, c'era solo l'ancora. Gli aeronauti, troppo affannati a cercare di tenere una rotta, non si erano accorti di nulla. Si suppose che il vecchio morente fosse sparito mentre volava in mezzo al golfo. Così scomparve Cosimo. E non ci diede neppure la soddisfazione di vederlo tornare sulla terra da morto. Nella tomba di famiglia c'è una stele che lo ricorda con scritto «Cosimo Piovasco di Rondò. Visse sugli alberi. Amò sempre la terra. Salì in cielo». Ogni tanto scrivendo mi interrompo e vado alla finestra. Il cielo è vuoto e a noi vecchi d'ombrosa abituati a vivere sotto quelle verdi cupole fa male agli occhi guardarlo. Si direbbe che gli alberi non hanno retto dopo che mio fratello se n'è andato o che gli uomini sono stati presi dalla furia della scure. Poi la vegetazione è cambiata. Non più i lecci, gli olmi, le roveri. Ora l'Africa, l'Australia, le Americhe, le Indie allungano fin qui rami e radici. Le piante antiche sono arretrate in alto, sopra le colline gli olivi e nei boschi dei monti i pini e castagni. In giù la costa è un'Australia rossa d'eucalipti, elefantesca di ficus, piante da giardino enormi e solitarie. E tutto il resto è palme coi loro ciuffi scarmigliati, alberi inospitali del deserto. Ombrosa non c'è più. Guardando il cielo sgombro mi domando se davvero è esistita. Quel frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobi, spiumii, minuto e senza fine, e il cielo, solo a sprazzi irregolari e ritagli, forse c'era solo perché ci passasse mio fratello col suo leggero passo di codibugnolo. Era un ricamo fatto sul nulla, che assomiglia a questo filo d'inchiostro, come l'ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di cancellature, di rimandi, di sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a momenti si sgrana in grossi acini chiari, a momenti si infittisce in segni minuscoli come semi puntiformi, ora si ritorce su se stesso, ora si biforca, ora collega agrumi di frasi con contorni di foglie o di nuvole, e poi si intoppa, e poi ripiglia a torcigliarsi, e corre, corre, e si dipana, e avvolge un ultimo grappolo insensato di parole, idee, sogni. Ed è finito. Sono di nuovo il Giabascego. E sono qui appunto a commentare, in qualche modo tirare le fila di questa bellissima lettura del Barone Rampante di Italo Calvino che ci ha fatto Manuela Mandracchia. Ecco, la voce di Manuela ci ha restituito un Calvino fresco, giovane, un Calvino che secondo me, ecco, dovrebbe andare nelle scuole, un Calvino che deve essere di nuovo letto, essere di nuovo amato come è stato amato moltissimo nel secolo scorso. E il Barone Rampante è una storia in qualche modo illuminante, se vediamo lo sfacelo in qualche modo in cui ci dibattiamo in Italia in questo ventunesimo secolo. Cosimo, appunto, il futuro Barone Rampante, lo abbiamo visto, è appena 12 anni nel 1767 quando, per un banale litigio con il padre, decide di salire su un albero e di non scendere mai più più. Però la cosa incredibile non è tanto Cosimo che appunto svolazza da un albero all'altro, ma come Calvino è riuscito a trasformare questa storia di pura fantascienza in un certo senso in qualcosa di molto reale. C'è molta, molta storia in questo libro, c'è la rivoluzione francese, c'è la terra del re di Spagna e Cosimo incontra un po' di tutto: pirati, carbonari, i pendagli da forca, i contadini, i massoni, i francesi. Insomma, c'è molta storia, ma anche una storia fantasiosa, perché comunque ci rendiamo conto che un uomo solo che appunto svolazza tra gli alberi non può incontrare tutte queste persone reali, ma proprio perché in qualche modo la situazione è assurda, la lingua di Calvino la rende credibile, la rende anche una grande metafora, no? di ribellione. Cosimo altro non è che un ribelle, ed è interessante come in questa storia non ci viene presentata dall'io di Cosimo, ma dal suo fratello, un fratello quasi incolore di cui non sappiamo assolutamente niente, di cui appunto Calvino non ci dice nulla perché fa una vita assolutamente normale. E la realtà è in questa lingua che Calvino usa, in questa lingua precisa, esatta, che tanta lezione potrebbe dare a chi scrive oggi o a chi si avvicina oggi alla lettura. E vorrei chiudere con un aneddoto. Non è un caso che Calvino sia uno degli autori più amati dagli scrittori migranti, dagli scrittori che hanno scelto di scrivere in italiano, proprio perché chi impara una lingua, e io ne conosco tanti scrittori che hanno imparato l'italiano e poi lo hanno amato, chi impara una lingua ha bisogno di un grande maestro. Ecco, Calvino credo che sia il più grande maestro del Novecento italiano. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Postfazione di Igiaba Scego. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.